Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Caffè, li ho già presi perché sono stato. Il primo lo prendiamo insieme. Buongiorno dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Buon caffè. Uno lo offriamo anche al dottor Andrea Franzetti, che è già in linea con noi, primario otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Dottor Franzetti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Per molti di noi la sveglia del mattino ha il profumo di caffè, un profumo che avvolge, che sembra proprio capace di dare la carica. I risvegli profumati sono sempre molto piacevoli, perché questo significa che il nostro naso, adeguatamente stimolato, ci regala delle sensazioni di benessere che naturalmente Proust, come sappiamo bene, ci ha descritto ad arte. Dottor Franzetti, che dice? Proust è stato proprio il primo a intuire la memoria olfattiva, che è una cosa che lui l'ha intuito più, diciamo, poeticamente, mentre invece poi gli studi anatomici e fisiologici hanno proprio definito che l'olfatto c'entra tantissimo con le emozioni e con la memoria, perché il percorso della via nervosa è molto vicino dal naso all'amigdala e al sistema limbico, che sono due parti dove vengono gestite le emozioni nel nostro cervello, e all'ippocampo dove viene gestita la memoria. Quindi aveva avuto una grande intuizione che poi la scienza ha sviluppato. È come se il naso fosse un avamposto del cervello. Certo, infatti si dice che quando uno ha naso vuol dire che capisce prima di tutto le cose. Infatti ha naso e ha fiuto. A proposito di fiuto, dottor Franzetti, l'olfatto dei cinque sensi è quello più antico e anche quello più enigmatico, di cui non si conoscono ancora tutti i segreti, e questo sicuramente alimenta la meraviglia, la curiosità. Certo, perché praticamente l'uomo ha cercato in tutti i modi di descrivere, prima di tutto, quelli che sono i principali le principali emozioni olfattive, sensazioni olfattive. Le ha divise in piacevoli, neutre e anche sgradevoli. Poi ha identificato, per esempio, delle principali sensazioni olfattorie. Tra le piacevoli, per esempio, le ha descritte la sensazione del fragrante, la sensazione del legnoso, del fruttuoso, del chimico e altre. E tra quelle sgradevoli ha descritto quelle più del pungente, del rancido, che è tipo il latte andato male, le uova marce, che sono proprio degli odori che ci fanno irritare, che sono talmente sgradevoli che ci fanno voler andare via. E poi ha iniziato a comprendere che l'olfatto è strettamente collegato con il gusto, e per cui ha cercato di legare l'olfatto, cioè le sensazioni olfattorie, le sensazioni gustative, che poi ha identificato essere cinque, che sono il dolce, il salato, l'amaro, l'acido, l'aspro, o una sensazione gustativa che si chiama umami, che vuol dire saporito, che è tipica dei cinesi o dei giapponesi. Sì, ricordo un po' la salsa di soia, anche il dado da brodo. Ecco. Esatto. E qui potremmo anche pensare a farci una domanda che potrebbe essere anche un quizzettone. È il quizzettone del dottor Franzetti, e non possiamo certo evitarcelo, anzi, dottore, che cosa ha pensato per noi? Ma io pensavo di chiedere questa cosa. Tra tutte le varie sensazioni olfattorie e tra tutte le sensazioni gustative, ce n'è solo una che si sovrappone, cioè che è percepibile sia col gusto che con l'olfatto. Adesso io ne elenco tre, e uno deve dire tra queste tre qual è la percezione che noi abbiamo chiara sia con il gusto che con l'olfatto. Potrebbe essere il dolce, oppure potrebbe essere il salato, oppure potrebbe essere il legnoso. Allora, dottor Franzetti, considerando che è mattina, che dobbiamo ancora un po' snebbiarci, io direi di fare così. Il quizzettone, il dottor Franzetti ce l'ha fatto. Noi prendiamoci il tempo, alla fine della trasmissione mettiamo la risposta giusta, naturalmente suggerita dal dottor Franzetti, sulle pagine del programma, che trovate la pagina Facebook di Obiettivo Salute. Il primo di voi che manderà la risposta corretta riceverà a casa un libro a nostra scelta. Ok, dottor Franzetti, diamo un po' di tempo, così magari uno va, fa un giretto, insomma, si attrezza per rispondere, per portarsi a casa anche un libro. Ma a proposito di olfatto, è vero che esistono due modi di usare questo senso? Certo, perché siccome l'olfatto nasce dal contatto dei corpuscoli che sono nell'aria con i filuzzi olfattori che sono in una regione particolare del naso, l'aria può passare nel naso secondo due flussi, uno che è durante l'inspirazione, cioè quando l'aria entra nel naso, ma uno anche durante l'espirazione, cioè quando l'aria dalla faringe, dalla bocca alla faringe passa, ritorna nel naso. Questa è la ragione per cui spesso noi possiamo sia percepire con l'olfatto gli odori, i profumi che ci sono all'esterno, nell'ambiente, durante l'inspirazione, ma possiamo anche ritornare con sensazioni olfattorie sul gusto, quando per esempio, non so, i sommelier ci insegnano che degustare un vino vuol dire anche durante l'espirazione risentirne il profumo che magari ho sentito inizialmente, così come di altri cibi, tipo formaggi, tipo anche dei cibi o delle spezie che ci stimolano in modo particolare il naso durante l'espirazione. Quindi il naso non è soltanto qualcosa che ci mette in contatto con l'ambiente esterno, ma ci mette in contatto anche con tutte le emozioni, le sensazioni che noi abbiamo internamente. Alcuni, per esempio, che hanno delle patologie infettive ricorrenti, anche croniche, a livello delle tonsille o a livello del cavo orale, o che hanno delle problematiche odontoiatriche, spesso nel naso sentono quelle che si chiamano delle cacosmie, cioè degli odori cattivi, che cattivi derivano non dall'ambiente esterno, ma da se stessi. Dottor Franzetti, a proposito ancora di olfatto, ne stiamo, lei ci, così, ci sta svelando i segreti, le magie di questo senso, ma di olfatto abbiamo parlato molto durante l'emergenza, perché la perdita dell'olfatto e anche l'alterazione del senso del gusto sono tra i sintomi dell'infezione causata dal coronavirus SARS-CoV-2, sappiamo che la perdita dell'olfatto può verificarsi anche per patologie molto più comuni, penso ad un raffreddore, penso all'influenza. Allora, dottor Franzetti, come si possono distinguere le due condizioni? Ma allora, la perdita dell'olfatto durante l'infezione da coronavirus è quasi sempre stata riferita in assenza di una sintomatologia nasale, cioè tendenzialmente uno dal naso respirava bene, non aveva secrezioni, non aveva sensazioni di rinite, raffreddore, sinusite, cose del genere, e però perdeva l'olfatto e di conseguenza poi si diminuiva anche la capacità gustativa. Mentre invece nelle forme, diciamo così, rinitiche, che possono essere allergiche, sì, infiammatorie, virali di altro tipo, da rinovirus meno pericolosi, noi abbiamo sempre un aumento della secrezione nasale, l'associazione con starnuti, un aumento del muco nasale, una sensazione di chiusura nel naso durante la respirazione per fenomeni sui turbinati. Per cui abbiamo una sintomatologia nasale di cui fa parte anche l'iposmia o l'anosmia, però non è il sintomo prevalente. Perdita però, dottor Franzetti, che è temporanea, perché per fortuna olfatto e gusto ritornano in tempi diversi da persona a persona, il problema è transitorio, ma dottor Franzetti, in base alla sua esperienza, ci sono delle attenzioni, delle precauzioni che le persone che a causa della Covid hanno perso gusto e olfatto devono avere? Allora, prima di tutto io mi sento di tranquillizzare tutti quelli che hanno vissuto un calo o un'assenza di olfatto durante un'infezione Covid, perché l'evidenza che abbiamo è che in tempi, alcuni più brevi, altri più lunghi, che possono essere anche di qualche mese, pian piano l'olfatto si riprende, perché c'è anche un'evidenza oggettiva che si sta studiando proprio per cercare di capire il meccanismo con cui il virus riusciva a ridurre l'olfatto, perché all'inizio era un po' allarmante questa cosa, perché si pensava che il virus fosse capace di intervenire direttamente sul tessuto nervoso, della via nervosa dell'olfatto, e questo lo faceva paragonare, e ci preoccupava questo, con dei virus certo, tipo lo zoster, che sono dei virus o l'herpes, che si chiamano neurotropi, cioè dei virus che sono capaci di incistarsi nel sistema nervoso e che periodicamente, come per esempio le afte per l'herpes, ritornano fuori sì, tutte le volte che noi abbiamo delle immunodepressioni. Invece in questo caso no. In questo caso fortunatamente no. Si è capito che invece l'iposmia o l'anosmia avviene all'interno della regione olfattoria nasale, quindi non andando a interessare la parte nervosa. Dottor Franzetti, chiudiamo quindi questa nostra chiacchierata mattutina con questo messaggio rassicurante e tranquillizzante. Sì. Dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi, le auguro grazie una buona giornata e un buon fiuto. In assistenza c'è Danilo Di Trani, che ringrazio, in regia Carmelo Lauricelli, in redazione Laura Vanossi. Come sempre vi do appuntamento alle 12 dopo il GR per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.